Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Voi pensate, gentili senatori, voi pensate due cose. La prima è che se urlate pensate di essere più credibili a casa, perché uno torna a casa e dice: cosa ho fatto oggi in Senato? Ho urlato, così il Presidente del Consiglio non poteva parlare. Cosa ho fatto? Cosa posso dire a mio figlio? Non ho fatto parlare qualcun altro. Questa è la grande forma democratica che pensate di poter presentare ai vostri figli. Questa è una delle notizie, care ascoltatrici e cari ascoltatori, quella di Renzi che in Senato si è difeso rispetto alla mozione di sfiducia contro il governo presentata da Forza Italia e Lega, ancora relativa alla Banca Etruria, al presunto conflitto di interessi della ministra Boschi, e qui diceva: inutile che urlate, non mi fate parlare, andrete a casa vostra dicendo non sono riuscito a far parlare il Presidente del Consiglio grazie ai miei urli. Questa, diceva, una delle notizie di cui parleremo, scusate la mia voce è ancora così, ma poi l'altra, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è quella di cui abbiamo parlato abbastanza diffusamente ieri qui a Effetto Notte, ma soprattutto attraverso i vostri commenti. Avete visto com'è montata la vicenda delle statue coperte nei musei capitolini per la visita del presidente iraniano Rouhani? Ieri avete scritto tantissime riflessioni, vi invito a continuare a farlo, perché appunto la vicenda è veramente montata a livello internazionale con molta ironia da parte dei media mondiali, anche con vari attacchi, con molti che dicono: insomma, in questo modo tradite la vostra cultura, la vostra storia, è una mortificazione. E poi c'è anche questo rimpallo di responsabilità tra la sovrintendenza e Palazzo Chigi, e Franceschini che dice che non ne sapeva nulla, e anche Renzi molto irritato, però dalla sovrintendenza dicono: no, il governo lo sapeva, è stata una decisione di Palazzo Chigi. Insomma, anche qui non si capisce più niente, proprio un po' all'italiana. Su questo comunque sentiremo poi qui tra poco il critico d'arte Achille Bonitoliva su questa vicenda. Voi però potete riprendere tranquillamente a fare le vostre riflessioni anche su questo, appunto, rimbalzarsi di responsabilità, che è uno sport molto italiano. 349-238-6666, ve lo ricordo, ma sempre il numero per gli sms, lo ripeto: 349-238-6666. E poi lo sapete che c'è sempre lì per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, sulla quale potete scrivere tutti i vostri commenti, alla quale naturalmente potete anche aderire senza indugio. Ma devo dirvi che è partito il presidente Rouhani, arriva, è già atterrato l'emiro del Qatar a Ciampino, si sono proprio dati il cambio, è la sua prima visita ufficiale da quando è salito al trono nel giugno 2013. Che cosa si potrà allora nascondere a questo punto all'emiro del Qatar? Si troverà qualcos'altro da coprire, qualche altra invenzione, qualche altra iniziativa creativa? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, mentre voi fate lavorare le meningi, le vostre riflessioni, vi racconto in sintesi la giornata. Banca: il Senato boccia la mozione di sfiducia di Forza Italia e Lega contro il governo. I no sono stati 178, 101 i sì, un astenuto. Le statue dei musei capitolini coperte, il ministro Franceschini dice che non ne sapeva nulla. Rimpallo di responsabilità tra sovrintendenza e Palazzo Chigi, che avvia un'indagine interna. Oggi la giornata della memoria, il monito di Mattarella dice: il rischio di antisemitismo è ancora elevato. Turchia ha chiesto l'ergastolo per due giornalisti di un giornale laico per uno scoop sul passaggio di armi verso la Siria. Corruzione nel rapporto di Transparency: l'Italia al 61esimo posto con Sudafrica e Montenegro, ma c'è un lieve miglioramento che Cantone definisce segnale positivo. Carrara: un maresciallo ucciso sulla porta di casa da un anziano che si è costituito. L'ho fatto, dice, perché aveva rovinato i miei figli. Calcio per la Coppa Italia: a Torino il derby d'Italia tra Juve e Inter. Partiamo quindi dalla mozione di sfiducia, si è votato poco fa al Senato, una mozione di sfiducia presentata dal centrodestra, Lega e Forza Italia, contro il governo per la vicenda delle banche, mozione che è stata bocciata però dal Senato. I no sono stati 178, i sì 101 e poi un astenuto. E poi la vicenda, come dicevamo, delle statue dei musei capitolini coperte. Il ministro Franceschini dice che non ne sapeva assolutamente nulla. C'è questo rimbalzo di responsabilità tra la sovrintendenza e Palazzo Chigi, che ha avviato allora un'indagine interna, e nel frattempo è diventato veramente un caso, vi dicevo, internazionale, con i media mondiali che fanno molta ironia, soprattutto anche persino dei giornali iraniani, e altri che invece dicono: l'Italia in questo modo ha tradito, ha mortificato la propria storia. Ne parleremo, vi dicevo, col critico d'arte Achille Bonito Oliva tra poco. Intanto sentiamo che lettura ne dà l'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri, riferendosi al fronte interno di Rouhani a Teheran e dintorni. Penso che questa che questa vicenda sia stata tutta politica. Tutta politica perché il problema qual era? Non tanto che Rohani vedesse queste statue, come ricordavi tu, ha studiato a Glasgow, ha vissuto in Gran Bretagna, ne ha viste di cose al mondo, non ha fatto il militare a Cuneo. Quindi il problema è un altro, il problema è che qualcuno potesse fotografarlo vicino a queste statue e che questi scatti potessero finire pubblicati in qualche giornale in Iran, in qualche modo creando degli inciampi alla sua campagna elettorale che per il 26 febbraio delle parlamentari dell'Assemblea degli Esperti. C'era già un precedente, quello di Ahmadinejad, e probabilmente questo ha spinto gli attentissimi e sorvegliati ospiti italiani a ricoprire statue che sono parte dell'eredità culturale. E oggi si celebra la giornata della memoria. Il rischio di antisemitismo, ha detto il presidente Mattarella, è ancora alto. Auschwitz, con i suoi reticolati, le camere a gas, le baracche, i forni crematori, non ci abbandona. Al contrario, ci interpella costantemente, ci costringe ogni volta a tornare sul ciglio dell'abisso e a guardarvi dentro. Auschwitz è un buco nero nella storia dell'umanità, un buco nero che ha di colpo inghiottito insieme a milioni di vittime innocenti secolari conquiste dell'umanità. Queste le parole usate dal capo dello Stato nella giornata della memoria, un messaggio che arriva anche nei giorni in cui l'Europa mette in discussione Schengen. Mattarella dunque ricorda che la costruzione dell'Unione Europea rappresenta la risposta politica alla Shoah. La coscienza del genocidio, dice, è stato uno dei motori fondamentali della convergenza tra paesi democratici. L'Europa è l'argine all'odio, all'intolleranza, quei nazionalismi di ritorno che sono portatori di nuove insidie. È dunque un'illusione, dice il capo dello Stato, alzare i muri e ricercare negli stati nazionali un'inverosimile sovranità perduta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora il rapporto sulla corruzione, il rapporto di Transparency. L'Italia è al 61esimo posto al mondo nella classifica di questo rapporto sulla corruzione della pubblica amministrazione di Transparency International, alla pari quindi con Lesotho, Senegal, Sudafrica e Montenegro. Tra i 28 paesi dell'Unione Europea solo la Bulgaria sta peggio dell'Italia, al 69esimo posto. Il paese meno corrotto è la Danimarca, davanti a Finlandia e Svezia. Gli Stati Uniti sono 16esimi e secondo la classifica i paesi più corrotti in assoluto sono Somalia e Corea del Nord. E per il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, dice, 8 posizioni guadagnate rispetto all'ultima graduatoria non è un numero elevatissimo, ma non è neppure insignificante. Devo dire che questi dati secondo me sono molto confortanti. In Italia credo che quest'anno si sia parlato di corruzione tantissimo, io direi per fortuna, e malgrado se ne sia parlato evidenziando ogni genere di scandali, ma veramente ogni genere di scandali, ancora oggi leggiamo, diciamo, arresti che ci sono a Caserta, a Verona, per fatti collegati a vicende di appalti eccetera, noi abbiamo comunque un cambiamento che è significativo. 8 posizioni, certo non è un'inversione, però devo dire, mi sarei preoccupato se l'Italia fosse passata dal 69esimo al primo posto, perché vuol dire che quella classifica non sarebbe attendibile. Il tema dell'immigrazione, ancora il dibattito sui migranti. Bruxelles accusa la Grecia che non vigila sufficientemente, secondo Bruxelles, sulle frontiere esterne europee. C'è sempre il trattato di Schengen a rischio. Serie carenze alle frontiere. La Commissione europea mostra il cartellino giallo alla Grecia, mettendo nero su bianco quanto già nei fatti si sapeva. Le frontiere elleniche sono porose e senza una riduzione dei flussi di migranti dalla Turchia manca il filtro necessario che andrebbe garantito in quanto paese di primo approdo dei profughi. Nello specifico Bruxelles rimprovera ad Atene di aver gravemente trascurato i propri obblighi per la gestione delle frontiere esterne. Servono miglioramenti importanti per garantire un'appropriata accoglienza, registrazione, ricollocazione o rimpatrio dei migranti, per garantire insomma che Schengen funzioni normalmente senza controlli alle frontiere interne. La Commissione concede che rispetto al passato ci sono stati progressi, ma resta ancora molto da fare, rimprovera. Ora la Grecia avrà 3 mesi di tempo per riparare alle carenze, dopodiché potrebbe scattare tra aprile e maggio la proposta di attivazione dell'articolo 26 del trattato di Schengen, che estende a 2 anni la possibilità di effettuare controlli alle frontiere interne comunitarie. Per il sito online del magazine tedesco Der Spiegel, Atene rischia seriamente l'esclusione dall'area Schengen. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si apprende in serata che la Macedonia ha chiuso la frontiera con la Grecia ai migranti e profughi, l'hanno detto le autorità greche con riferimento dei media serbi. In conseguenza di ciò Circa 2600 migranti sono bloccati sul territorio greco, non sono stati resi noti i motivi di questo provvedimento e anche la scorsa settimana la Macedonia aveva preso una misura analoga, chiudendo temporaneamente la frontiera ai migranti e profughi della rotta balcanica. Quindi continuano diversi paesi, insomma, a fare barriera. Ancora all'estero, in Turchia è stato chiesto l'ergastolo per due giornalisti del giornale Cumhuriyet per uno scoop sul passaggio di armi tra la Turchia e la Siria, e ne parleremo dopo con l'organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere. Stati Uniti, l'occupazione del rifugio federale in Oregon da parte di una milizia di rancher armati va avanti, la conferma l'FBI nel corso di una conferenza stampa sulla sparatoria che ha causato un morto e portato all'arresto dei capi della rivolta. Siamo di nuovo in Italia con la cronaca. Un maresciallo dei carabinieri di 47 anni, padre di due figli, è stato ucciso sulla porta della sua abitazione a Carrara questa mattina in una strada del centro storico. Il killer è un uomo di 72 anni che successivamente si è costituito. Ha rovinato i miei figli, ha spiegato l'anziano ex postino. Almeno uno dei suoi due figli infatti avrebbe avuto problemi giudiziari probabilmente in seguito alle indagini del sottufficiale ucciso. E costa caro un dirigente Rai l'anticipo sul conto alla rovescia dell'ultimo capodanno nello show svoltosi a Matera. La Rai ha licenziato Antonio Azzalini. L'anticipo sul countdown di Capodanno costa caro al capostruttura di Rai 1, responsabile editoriale della serata televisiva del 31 dicembre in onda da Matera. 40 secondi di anticipo sul countdown, telespettatori spaesati, web e social implacabili nel portare a galla la vicenda, che fece il paio anche con una bestemmia mandata in onda nei rulli di SMS. Non è un'azione dimostrativa, ma è un tema di serietà aziendale, puntualizza la presidente Rai Monica Maggioni in commissione di vigilanza. Decisione che arriva a conclusione di un iter procedurale avviato da subito e al termine di un'attenta riflessione, recita un comunicato aziendale. Nelle motivazioni del licenziamento, la TV di Stato spiega che Azzalini ha deciso l'anticipo del countdown di mezzanotte senza avvertire i suoi superiori. L'ormai ex capostruttura Rai si era anche difeso dicendo che la Rai non poteva non sapere di una prassi consolidata negli anni. Argomentazioni non veritiere ed ulteriormente lesive dell'immagine dell'azienda, ha ribattuto Viale Mazzini con una nota. La vicenda si chiude, salvo ricorsi, e il segnale della nuova Rai targata Campo dall'Orto non passa inosservato. Va bene cercare di vincere la partita degli ascolti, ma senza trucchi. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Azzalini ha informato insomma, che farà ricorso perché sono stati negati i diritti per la mia difesa. Parliamo anche di smog, cioè l'allarme sempre inquinamento a Milano. La sospensione del divieto di circolazione per i mezzi diesel prevista dalla Regione Lombardia per la giornata di domani e causata dallo sciopero dei mezzi pubblici preoccupa gli amministratori della città metropolitana. Anna Scavuzzo, consigliera con delega all'ambiente, la sentiamo al microfono di Edoardo Sirignano. Nella giornata di domani, se dovesse essere confermato lo sciopero, valgono le normative regionali e le deroghe che sono state proposte, per cui la regione dice domani non ci sono garanzie di poter usare il trasporto pubblico su rotaia, per cui vado in deroga sugli euro 0, euro 1, euro 2. Non nascondo una certa difficoltà nel riuscire a trovare una soluzione che tenga conto da una parte dei diritti dei lavoratori e dall'altra però la garanzia e la tutela per l'aria e per la lotta all'inquinamento. Sarebbe necessario trovare delle forme diverse di sciopero in modo tale che la qualità dell'aria, che è un bene pubblico, e la tutela della salute dei cittadini non sia messo in secondo piano rispetto a quelli che sono i diritti acquisiti di tutti i lavoratori. Su questo punto abbiamo bisogno di trovare nuove forme perché i diritti di tutti siano tutelati. Quello alla salute non è un diritto minore. E adesso vediamo a che punto è la partita semifinale di Coppa Italia, purtroppo particolarmente importante, Juventus-Inter. Giovanni Capuano, come è iniziata? Eccomi Roberta, siamo alla mezz'ora del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0, ma è davvero una bella partita, aperta, ricca di emozioni, molto tesa dal punto di vista agonistico, meglio la Juve in questi primi 30 minuti, ma era anche prevedibile perché gioca in casa, è andata un paio di volte vicino al gol, l'ultima al 21esimo con uno slalom di Cuadrado, il destro del colombiano, palla che si è persa di poco sul fondo, l'altra occasione l'aveva avuta dopo 120 secondi con Asamoah, e poi c'è il giallo di un calcio di rigore abbastanza netto, negato ai bianconeri, un braccio di Medel su punizione di Cuadrado, rigore che era passo solare, Tagliavento non l'ha visto, ci sono state grandissime proteste da parte dei giocatori, del pubblico della Juventus, Tagliavento evidentemente era coperto in quell'occasione. Inter però che sta cercando di ribattere colpo su colpo, si è vista con un paio di contropiedi, squadra schierata con il 4-3-3 e tutt'altro che rinunciataria, quella di Mancini questa sera, E mentre nella Juventus, rispetto alle formazioni che erano annunciate alla vigilia, c'è da segnalare il forfè di Sturaro per un attacco influenzale. Al suo posto gioca Asamoah, 31esimo, 0-0 nel primo tempo, tale linea. A dopo Giovanni Capuano, allora, per vedere come prosegue. E diciamo un giorno, sì, dal voto sulle unioni civili, sentite questa storia particolare, questa notizia extra, che lui diventa lei, lei diventa lui, poi si sposano. Succede in un comune, Orbetello, vicino Grosseto, il 6 febbraio, quindi tra pochi giorni, Alessia, Vittoria Cozzi e Davide Martino, la coppia formata da un uomo che è diventato donna e da una donna che è diventata uomo, si sposeranno. Lei metterà l'abito bianco. I due giovani sin dall'infanzia hanno sempre rifiutato il corpo in cui erano nati, poi si sono conosciuti, si sono innamorati e hanno deciso di sposarsi. Così, insomma, finisce questa storia così particolare. Il mondo evidentemente è molto vario. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco parleremo con Achille Bonito Oliva su questa vicenda che ha assunto appunto risonanza internazionale, dei nudi coperti, nudi capitolini coperti per il presidente iraniano Rouhani. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci insieme, ecco che arrivano i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666 su questa storia appunto dei nudi capitolini, visto che ormai non solo ha assunto risonanza internazionale, ma c'è anche questo scontro tra sovrintendenza capitolina e Palazzo Chigi. L'una che dice lo sapeva il governo, Palazzo Chigi, è stata anzi una decisione di Palazzo Chigi, e invece dall'altra parte si dice no, non ne sapevamo proprio nulla, e anzi Renzi ha deciso di avviare un'indagine interna. Che ne pensate di questo fatto? Insomma, al di là che ieri avete molto commentato l'opportunità o meno di aver coperto questi nudi, ma anche adesso dell'Italia che viene un pochino sbeffeggiata, diciamo, a livello internazionale, e poi è sempre questo sport di scaricabarile, insomma. Luca scrive sulla pagina Facebook: il rispetto delle culture altre che diventa una ridicola autofustigazione in assenza della conoscenza e del rispetto della nostra cultura. Di questo dobbiamo ringraziare quell'obbrobrio culturale ed emotivo che è la fusione del peggio della sinistra col peggio del cattolicesimo, così dice Luca. Serena: ciao Roberta, a me sembra l'ennesima arma di distrazione delle masse, architettata ad hoc da Renzi, forse, dice, per distogliere per un giorno ormai due l'attenzione dalle tante altre vere problematiche del paese. Cristiano: i silenzi intrecciati nei vari corridoi del potere potranno slabbrarsi presto, appena un'ugola magari insoddisfatta o astiosa svelerà l'arcano. In ogni caso, se fra gli stracci che guardano la vena di pistoletto si aggiungessero ritagli di giornale pieni di questa notizia, fotografie accartocciate, sei un po' complesso, Cristiano, oggi. Alberto dice: cara Roberta, adesso salta fuori da parte di tutti i politici coinvolti nella vicenda, per la quale i TG di mezzo mondo ci prendono per i fondelli, la solita tiritera del a mia insaputa, così come nel caso della povera Shalabayeva, impacchettata con la sua bimba da Alfa Anne e spedita in Kazakistan. Poi vabbè, c'è la vicenda della casa con vista Colosseo. Ma vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, quali sono le altre notizie più importanti della giornata. È stata respinta la mozione di sfiducia contro il governo al Senato sulla vicenda banche. Renzi ha detto: il conflitto di interessi della Boschi non esiste. Statue coperte per Rouhani, indagine interna di Palazzo Chigi. Franceschini dice: una scelta incomprensibile questa di coprirli, noi non sapevamo nulla. Mattarella, Presidente della Repubblica, nel giorno della memoria dice: la Shoah fu motore per la costruzione dell'Europa, e dice però il rischio di antisemitismo è sempre elevato. La RAI che licenzia il dirigente Azzalini per il countdown, vi ricordate, di Capodanno, troppo che era stato anticipato, insomma. E dall'Orto il direttore generale dice: inammissibile guardare solo allo share, perché il dirigente aveva fatto questo per aumentare lo share in quel momento. E poi Ilva: via libera del Senato per la legge sulla vendita. Turchia: è stato chiesto l'ergastolo per due giornalisti di un quotidiano per uno scoop sul passaggio di armi verso la Siria. E poi il maresciallo dei carabinieri ucciso a Carrara davanti a casa sua da un anziano che si è costituito, dice, aveva rovinato i miei figli. Ed è Eccoci allora al caso che ha fatto il giro del mondo, di cui ieri qui a Effetto Notte abbiamo parlato diffusamente. Voi avete scritto un sacco di messaggi su questa vicenda delle statue nude di donne, capolavori dei musei capitolini, non solo di donne, tra cui la Venere Esquilina, coperti con questi anonimi pannelli per non urtare la sensibilità del presidente iraniano Rouhani, che era in visita in Italia, ieri in specifico dal Papa. Ora, la polemica su questa operazione, come vogliamo chiamarla, di camouflage, è montata come la panna, è diventata soprattutto politica a livello internazionale, perché dovete sapere che ieri sono arrivate tantissime telefonate al centralino di Palazzo Chigi da tutto il mondo, soprattutto anglosassoni, dalla BBC, dalla CNN, per capire che cosa fosse successo. Allora, la ricostruzione ufficiosa della vicenda sarebbe questo: che sarebbero stati gli iraniani, con una delegazione che avevano fatto sopralluoghi in Campidoglio, avevano detto che era opportuno, per evitare possibili motivi di imbarazzo, coprire le statue di nudi. Il cerimoniale di Palazzo Chigi ha accolto, forse per eccesso di zelo, con favore questa richiesta e quindi ha oscurato questi nudi. Che la decisione sia stata presa in totale autonomia, senza un avallo politico, sembra un po' curioso, ma parrebbe che Palazzo Chigi non ne abbia saputo nulla. Lo stesso Franceschini, ministro dei beni culturali, che ha detto è una decisione assurda, incomprensibile, noi eravamo all'oscuro, mentre la sovrintendenza rimpalla la responsabilità e dice non è stata una decisione nostra, la sovrintendenza capitolina, è stato Palazzo Chigi lo sapeva. Adesso sembra che Renzi abbia voluto aprire un'indagine su questa vicenda, su come sia andata, insomma, però è diventato davvero un caso internazionale. Vorrei sapere a questo punto il parere di un grande critico non ha bisogno di presentazioni come Achille Bonito Oliva, che saluto. Professore, buonasera. Buonasera. Dunque, ci dica lei, hanno fatto bene, hanno fatto male, e come l'ha vista lei questa vicenda? Sembra di tornare indietro di 5 secoli. Nel 1563-64, quando ci fu il concilio di Trento, con cui nasce la Controriforma, la Chiesa Cattolica impose agli artisti, quando dipingevano, di aver vicino una sorta di guardiano della fede, un prete, un monaco, che controllasse l'ortodossia iconografica dell'opera in corso, se no il pittore andava bloccato. Ma successe altro: il Papa Paolo IV incarica Daniele da Volterra, un pittore che aveva lavorato anche con Michelangelo, di mettere le baghette ai nudi del Giudizio Universale nella Cappella Sistina di Michelangelo. E perciò Daniele da Volterra viene chiamato Daniele da Volterra il braghettone, perché in qualche modo, a seconda la censura della Chiesa della Controriforma, che dipinge le brache ai nudi, ai dannati che vengono rappresentati, come sappiamo, nel Giudizio Universale da Michelangelo nella Cappella Sistina. Ora, questa sorta di risposta ospitale per non ledere la sensibilità di un'altra cultura, trovo che però che contraddice quello che è il valore centrale dell'arte. L'arte è coesistenza delle differenze, per cui possono coesistere mentalità diverse, civiltà diverse, ma a partire dal fatto che c'è sempre il riconoscimento della diversità. In questo caso invece noi abbiamo, come in maniera paternalistica, accettato di non ferire la sensibilità, diciamo, degli ayatollah iraniani. In realtà, diciamolo pure, è prevalso il realismo politico, l'economia, il fatto che si stava lì per incontrare un presidente del Consiglio con il presidente di un'altra nazione, con cui si vuole stabilire un grande rapporto commerciale, scambi economici e favorire anche la distensione, questo senz'altro. Ma dico, ecco, questo è il fatto vero, che si è leso un valore universale dell'arte, che è quello della coesistenza delle differenze, perché se si accetta questo si rende conto che allora sarebbe molto pericoloso pensare che adesso il Presidente va a Parigi e bisogna coprire tutte le Marianne che sono raffigurate nei quadri dove c'è la Marsigliese, c'è il simbolo della Francia, della donna col seno scoperto. oltre che mortificante diventa anche un po' laborioso, appunto, con tutte queste effigie. Professore, però lei dice quindi in parte per favorire anche la distensione, c'erano stati anche dei precedenti, anche quando c'era stata la regina Elisabetta, regina d'Inghilterra, quindi diciamo è forse un costume, un po' un eccesso di zelo, un pensare che siano cose che non hanno quel valore eccessivo. Anche perché, mi scusi, l'arte è rappresentazione della bellezza, la bellezza è una promessa di felicità, di buona convivenza, quindi secondo me è un massaggio, come dico io, l'arte, del muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva, per cui l'arte ha una funzione balsamica, positiva, costruttiva, perché in qualche modo celebra la convivenza dell'artista che crea e dell'umanità che contempla, e anche da punti di vista diversi, proprio perché la diversità, secondo me, è frutto di questa coesistenza. Quindi cerchiamo di non atrofizzarci, dice lei, professor Bonito Oliva. Un'ultima cosa le chiedo, se ha voglia anche di fare un commento su questo. Le pare possibile che il ministro dei beni culturali Franceschini non ne sapesse nulla dell'itinerario che avrebbe fatto, del fatto che coprivano l'estate? In questo caso si capisce che è stato leso un altro diritto, quello del ministro competente, proprio della cultura, e non è stato informato, quindi c'è un'omissione e c'è, secondo me, proprio la prevalenza di un pragmatismo politico, di un realismo politico, il caso di dire, quasi machiavellico. Insomma, quindi... machiavellico nel senso del grande Machiavelli, cioè dire la divisione tra etica ed estetica, e la divisione tra etica e politica, e la prevalenza, appunto, di un facile pragmatismo, che in questo caso si coglie dal fatto che Rovani è arrivato in Italia con oltre 100 industriali al seguito, pronti a firmare dei contratti lucrosi, ovviamente anche per loro, con la Confindustria, con gli imprenditori italiani. Anche se la sovrintendenza, come dicevo a sua volta, dice no, Palazzo Chigi lo sapeva, anzi è stata sua decisione. Insomma, il solito rimpallo all'italiana e anche l'immagine italiana nel mondo che ogni tanto fa parlare così con un po' di ironia. Quando io parlo di controriforma, la controriforma sostiene che cosa alla fine? Il perdono, la confessione, tutto si può riparare a tutto, la flessibilità. Diciamo che sono dei valori di relativismo morale che fanno parte veramente della storia e dell'antropologia di questo popolo, del popolo italiano. E anche questa volta c'è la distribuzione dei rimpalli tra le diverse istituzioni, e diciamo che prevale ancora, adesso non per finire ironicamente, sul comico, che a sua insaputa, appunto, è diventato poi costume del nostro paese. Anche qualche altro episodio. Beh, devo dire di sì. E c'è una continuità nel nostro paese. Grazie, professor Achille Bonito Oliva. Grazie, buon arte a lei. E complimenti per aver preso di petto questo incidente, perché su questo si può riflettere ancora di più a lungo. Grazie, professore. Veramente importante. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Diamo ancora un po' uno sguardo ai vostri messaggi. Intanto c'è, per esempio, sulla pagina Facebook Anna Bruno mi dice: mi sembra un gesto di asservimento il valore dell'arte universale. Poi Vela: assolutamente sbagliato, se veramente davano fastidio al presidente iraniano allora è lui ad essere inappropriato a visitare l'Italia. Stefano scrive: è una vergogna vedere come tutto per interesse si genuflette di fronte al dio denaro. Ennio scrive: un popolo di poeti e di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori e di occultatori delle opere d'arte, retaggio di un passato sempre più lontano, perché da tempo questo paese, dice, non genera più vere opere d'arte. E poi anche su WhatsApp, è piccolissimo, vediamo cosa riesco a leggere. Ciao Roberta, penso, dice Stefano da Genova, che per l'ospitalità, l'ospite gradito, tutti noi facciamo qualcosa di più a casa nostra. E poi ma dai, non posso credere, un altro ascoltatore, che una nazione figlia della migliore diplomazia da secoli abbia sbagliato così alla leggera. E un altro WhatsApp: ci siamo sottomessi all'Islam, non è passato un bel messaggio, complimenti chiunque sia stato, lo trovo di una codardia unica. E poi statue, andiamo da loro, ci mettiamo il velo, da noi ci copriamo col velo, è come giocare a nascondino. E poi anche sul 349-238-6666, dove arrivano gli sms, scrive un ascoltatore o ascoltatrice: mettete almeno un nome d'arte o di invenzione. Coprire le statue, dice, un po' giustifica la distruzione dei siti archeologici dell'ISIS. Anche questo potrebbe essere un input. Voi continuate con le vostre riflessioni, ci prendiamo una piccola pausa di ricreazione. Tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo tra pochissimo le notizie più importanti della giornata. Ricordatevi comunque che Effetto Notte inizia puntualmente, più o meno puntualmente, alle 21. Roberta Giordano sempre con voi, e continuano ad arrivare i vostri messaggi al 349-238-6666, sms al 349-238-6666, su WhatsApp, piccoli arrivano, e poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi. Rosanna per esempio scrive su questa vicenda di cui abbiamo parlato ampiamente con il maestro Bonito Oliva, che ha detto che la bellezza, che l'arte è un massaggio del muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva. Rosanna scrive: no Roberta, non è stato giusto, siamo un paese piccolo pronti a chinare il capo di fronte al tintinnio dei soldi. Alessandro dice: oltre che ipocrita, il governo si è dimostrato stupido, sarebbe bastato riceverlo in un altro luogo, non ci sarebbe stata nessuna polemica. Ora che ci penso, nello staff che lo ha ricevuto hanno anche eliminato i tendenti gay, dice così Alessandro. E poi ancora su WhatsApp Riccardo dice: provincialismo italiano, niente di più, fatto per tutti gli italiani che vanno all'estero e vogliono mangiare gli spaghetti al pomodoro al dente, scrive Riccardo. Adesso voi continuate con le vostre riflessioni, tra poco parleremo anche di questo voto di sfiducia che non è passato al Senato, e comunque della questione delle banche in genere, delle banche in sofferenza in Italia, e dell'accordo che è riuscito ieri a strappare Padoan a Bruxelles. Ma riandiamo sulle notizie più importanti. Banche, per l'appunto, il Senato boccia la mozione di sfiducia di Forza Italia e Lega contro il governo. I no sono stati 178, 101 i sì, un astenuto. Le statue dei musei capitolini coperte, il ministro Franceschini dice che non ne sapeva nulla, rimpallo di responsabilità tra sovrintendenza e Palazzo Chigi, che avvia un'indagine interna. Oggi la giornata della memoria, col monito di Mattarella, che dice il rischio di antisemitismo è sempre elevato. Turchia ha chiesto l'ergastolo per due giornalisti di un quotidiano laico per uno scoop sul passaggio di armi dalla Turchia verso la Siria. Corruzione nel rapporto di Transparency Italia, al 61esimo posto il nostro paese con Sudafrica e Montenegro, ma c'è un lieve miglioramento che Cantone, capo dell'anticorruzione, definisce segnale positivo. Carrara, un maresciallo ucciso sulla porta di casa da un anziano che si è costituito, l'ho fatto, dice, perché aveva rovinato i miei figli. Calcio per la Coppa Italia, a Torino il derby tra Juve e Inter, e per il momento conduce la Juventus 1-0. Ora protagoniste le banche, sia con l'accordo raggiunto ieri, diceva, a Bruxelles dal ministro Padoan per affrontare il problema dei crediti deteriorati delle banche italiane, nelle pance, come ormai si dice, delle banche italiane, cioè quei crediti che difficilmente si potranno riscuotere, e poi a seguire, sempre argomento banche, il voto di sfiducia contro il governo Renzi per la vicenda delle banche fallite, sfiducia che non è passata per il presunto conflitto di interessi per il caso Banca Etruria della ministra Boschi. Ne parliamo con Alberto Torioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera. Intanto sentiamo che cosa ha detto Padoan al Senato a proposito di questa bad bank, che potrebbe essere un primo modo per affrontare questi crediti deteriorati. Sentiamo. Si tratta di una garanzia che il Tesoro venderà agli operatori che ne faranno richiesta nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza. Lo Stato garantirà soltanto le tranche senior delle cartolarizzazioni, cioè quelle più sicure, che sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. La presenza della garanzia pubblica faciliterà il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze e non avrà impatti né sul debito pubblico né sul deficit. E questo ci pare positivo, Alberto Orioli, però ci spieghi in poche parole, in modo schematico, esattamente in cosa consiste tutta questa operazione? Sì, molto schematico, perché in realtà è un'operazione molto complessa. Sono confortanti le parole che Padoan ha detto in Parlamento, perché che non ci siano impatti su debito e deficit è molto rilevante. Questo sgombra un po' la strada anche dalle preoccupazioni nei rapporti con l'Europa e quant'altro. Il sistema è un sistema di garanzie, non è esattamente una bad bank, che sarebbe un'unica vera grande banca dove metti le cose cattive, non sarà così. Ci sarà un sistema di garanzie pubbliche per le cartolarizzazioni dei cosiddetti crediti in sofferenza, cioè si crea un veicolo che ha in pancia dei titoli che garantiscono oggi per domani degli introiti. Per il domani sarebbe quando si presume che il credito possa essere recuperato, e che hanno appunto una garanzia pubblica e quindi rendono quel tipo di titoli molto sicuro sul mercato che li dovrà poi negoziare. La cosa è stata stabilita con criteri molto complessi, sia sulle tipologie di crediti che possono essere collegabili a questa garanzia, sia sulle modalità della cifratura, diciamo così, del prezzo che costerà questa garanzia pubblica. E i crediti oggi si dividono in tre tranche, senior, mezzanini e junior. Vale a dire, senior sono quelli che hanno maggiori garanzie di essere recuperati, e poi via via i mezzanini un po' meno, e gli junior sono proprio quelli su cui nessuno scommetterebbe nulla perché non sono davvero recuperabili. La garanzia pubblica vale solo sui cosiddetti senior, cioè quelli che hanno più alte chance di recupero. Il problema era capire quanto potesse costare questa garanzia pubblica. Se uno Stato decide di porla a prezzi troppo bassi, che sarebbero di molto inferiori a quelli di qualunque operatore professionale privato di quel tipo di mercato, incappa subito nelle censure dell'Europa, che li considera aiuto di Stato, perché è chiaro che tu fai un'operazione praticamente in dumping finanziario, cioè sotto costo, troppo sotto costo. Se però, per venire incontro alle obiezioni dell'Europa, tu prezzi questo tipo di garanzia con una percentuale troppo alta, la poni immediatamente al di fuori del mercato, perché nessuno ti comprerà quei titoli perché sono troppo onerosi, evidentemente non possono stare in piedi in un mercato che abbia domanda, una dinamica normale di domanda e offerta. Quindi le 5 ore di negoziato di ieri in gran parte sono anche servite a calibrare effettivamente qual è la quota di prezzo per questo tipo di garanzie, che ancora peraltro non è stata esplicitata nemmeno oggi, ma si sa che saranno garanzie che via via crescenti nel tempo, a maggior lunghezza della durata di queste cartolarizzazioni sale il costo della garanzia perché la possibilità di recuperarli si allontana, e differenziate naturalmente nelle tipologie di crediti che tu vuoi mettere sul mercato legate alle cartolarizzazioni, cioè i senior o gli altri non esigibili, diciamo così, a breve. Quindi si creeranno dei veicoli, delle società che avranno in pancia sia i senior garantiti dal pubblico, sia una parte di crediti invece più difficoltosi. Ora vedremo come il mercato effettivamente accoglierà questa cosa. È indicativo come è andata oggi, come sono andati i titoli bancari in borsa. In un primo tempo hanno un po' rifiatato, ma poi di nuovo hanno avuto qualche sofferenza, qualche tensione. Quindi effettivamente anche nel mondo degli operatori professionali del settore c'è ancora qualche perplessità da chiarire. Invece adesso la perplessità è stata chiarita, nel senso almeno che il voto di sfiducia non è passato contro il governo, quello presentato da Forza Italia e Lega. Sentiamo Renzi prima nel suo intervento, prima del voto in Senato. Io non dico la frase che sarebbe semplice, da che pulpito, amici del centrodestra. Vi sto dicendo una cosa diversa, prendendovi in parola. Non c'è alcun conflitto di interessi in questa vicenda, c'è soltanto il tentativo di aver salvato 1 milione di correntisti, 7.000 stipendi. Se volete mandarci a casa perché abbiamo salvato 1 milione di correntisti e 7.000 stipendi, fatelo. Noi non avremmo mai distrutto pezzi di economia per fare una battaglia politica contro il governo. Prima delle vostre beghe di partito c'è l'Italia. Adesso sentiamo anche l'altro passaggio sulla riforma delle popolari. Se volete mandare a casa questo governo perché il governo ha fatto il decreto sulle popolari, fatelo pure. Noi siamo orgogliosi di aver fatto una riforma che da 25 anni il Parlamento avrebbe dovuto fare e che fu tentata l'ultima volta dal ministro del Tesoro Ciampi e dal direttore generale del Tesoro Draghi. Alberto Rioli, giusto una battuta insomma su questo momento politico. Ma insomma era più che scontato che non passasse quel voto. Devo dire un Renzi particolarmente efficace da un punto di vista retorico, bisogna dargliene atto. Sì, sì. Devo anche dire che poi è abbastanza fastidioso utilizzare come argomento politico l'idea delle colpe di un padre sui figli. Non è mai una gran cosa, obiettivamente, al di là delle tecnicalità e delle cose che la dell'opportunità politica a volte dovesse scoprire, perché ancora le indagini sono in corso, quindi diciamo così c'è un grado di sospettabilità che non è così accentuato in questa fase. Certo è, l'opportunità politica è sempre una cosa che ha dei margini un po' aleatori, e questo va bene, però la vera fiducia, diciamo così, operazione di fiducia è quella che Renzi dovrà conquistare con i risparmiatori, con queste riforme che riguardano il credito, a cominciare da questa di oggi delle garanzie, ma anche quella sulla riforma delle BCC e sul ritocco del fallimentare, che consentirà il recupero crediti un po' più accelerato e meno vincolato alle burocrazie, ai tempi lunghi della giustizia. Queste sono le cose importanti. E la vera resa poi che queste cose avranno sulla cittadinanza, sui cittadini, si incrocerà necessariamente con la campagna elettorale delle amministrative. Allora lì sì che ci sarà il vero test, per così dire, di fiducia. Grazie Alberto Rioli, noi abbiamo fiducia in te. Ciao. Grazie Alberto. A voi. Buon lavoro. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Sempre i vostri messaggi, ritorno sulla pagina Facebook di Effetto Notte e dice per esempio Alberto, ciao Roberto, adesso salta fuori da parte di tutti i politici coinvolti nella vicenda per la quale i TG di Mezzo Mondo ci prendono in giro, questo era di prima, scusate Ilaria, Roberta, questa polemica sta diventando stucchevole, hanno fatto fior di sopralluoghi prima di scatolare le statue, tra l'altro la visita era già prevista tempo fa, poi annullata in seguito ai fatti di Parigi, ha uno scoop, la Venere impacchettata e quella esquilina, la Capitolina è stata lasciata tranquilla, non era sul suo percorso. Elena, sembra che queste statue si siano coperte da sole, forse il freddo, dice così Elena ironicamente. Intanto vi ricordo molto velocemente le notizie più importanti, a parte che vedo adesso purtroppo un fatto di cronaca nera, una 17enne è stata trovata seminuda sull'argine del Po a Piacenza, molto probabilmente vittima di violenza sessuale da una persona o più persone. E poi le altre notizie sono appunto, abbiamo appena parlato, banche, è stata respinta la mozione di sfiducia contro il governo con Renzi che ha detto il conflitto di interessi della Boschi non esiste. Le statue coperte per Roani, indagine interna di Palazzo Chigi con Franceschini, ministro dei beni culturali, che dice la scelta è stata incomprensibile di coprire le statue, non ne sapevamo nulla. Mattarella sulla Shoah, oggi il giorno della memoria, dice fu motore per la costruzione dell'Unione Europea, ma l'antisemitismo è sempre ad alto rischio. La RAI che licenzia il dirigente Azzalini per il countdown di Capodanno. E poi Ilva via libera del Senato per la legge sulla vendita. Turchia ha chiesto l'ergastolo per due giornalisti di un giornale laico per uno scoop sul passaggio di armi verso la Siria. Europa 24 notte. Oggi appunto diciamo il giorno della memoria, anche l'Europa commemora il ricordo della Shoah. Tra le iniziative quella del premio Lux del Parlamento Europeo. Commemorare il giorno della memoria con il cinema. L'iniziativa del premio cinematografico europeo Lux, insieme ai distributori del film Il figlio di Saul, proiettato contemporaneamente in Belgio, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Croazia. Il film, finalista del premio Lux, Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes, vincitore del Golden Globe, è il favorito ai prossimi premi Oscar come miglior film straniero. Racconta la storia di un ebreo ungherese deportato ad Auschwitz-Birkenau, reclutato come Sonderkommando, costretto ad assistere allo sterminio della sua gente e a rimuovere i corpi dalle camere a gas e poi cremarli. Dov'è il ragazzo? L'ho portato al sicuro. Ho dovuto nasconderlo agli altri dottori. A introdurre la proiezione straordinaria del figlio di Saul, una conferenza via streaming dell'attore protagonista del film, Geza Röhrig, e del presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. It plays a key role, perhaps today more. La cultura, ha spiegato Schulz, svolge un ruolo chiave nella costruzione della memoria, forse ancora di più oggi rispetto al passato, perché il tempo passa e scompaiono i testimoni diretti dell'Olocausto e i demoni del passato sono piegati, ma non vinti. The systematic I totalitarismi, ha detto Schulz, sono sempre vivi sul nostro pianeta. Il genocidio sistematico industrializzato dai nazisti forse non è più possibile, ma la tentazione di uccidere gli altri perché si crede che la pensino in modo sbagliato esiste sempre. Le tentazioni nazionalistiche, la voglia sempre crescente di rinchiudersi nel proprio paese e di considerare l'Europa un corpo estraneo e inutile, rischiano di riportarci indietro. Non puoi scambiarlo con qualcun altro. No, devo fare l'autopsia, devo documentare tutto. Vieni. Il protagonista del film, Gesar Öryk, musicista e poeta, è al suo debutto come attore. It's not enough to know, it has to be felt. Con questo film non volevamo raccontare la storia, ha spiegato, perché quella la si legge nei libri, la si studia a scuola. Non è abbastanza sapere, bisogna vivere un'esperienza. Per questo, dice, tanti film sull'Olocausto sono inutili se non dannosi. I think the Holocaust has been used and abused by the entertainment industry. L'Olocausto è stato usato e abusato dall'industria cinematografica. Certo, nessuno l'ha fatto con cattive intenzioni, ma tutti questi film hanno raccontato le storie dei sopravvissuti, non spiegando la realtà dei morti. E si tratta di film girati in maniera tradizionale, ma di fronte a una condizione umana così estrema, bisogna inventare un nuovo linguaggio. I vecchi trucchi non funzionano. You do have to forge a new cinematic language. The old tricks just simply don't work. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ora invece spostiamoci sulla Turchia, perché la procura di Istanbul ha chiesto una condanna all'ergastolo per Can Dündar e Erdem Gül, che sono direttore e caporedattore del quotidiano di opposizione laica Cumhuriyet. Sono accusati di spionaggio e propaganda terroristica per un'inchiesta che fecero su un presunto passaggio di armi dalla Turchia alla Siria. Il presidente Erdogan aveva assicurato che avrebbero pagato un caro prezzo. Il caso ha suscitato proteste a livello internazionale. Intanto i due poveretti sono già da 40 giorni in isolamento. Ne parliamo con Mimmo Candito, grande inviato e anche presidente di Reporter Senza Frontiere. Ciao Mimmo, buonasera. Ciao Roberto, ciao, buongiorno. Buonasera. La Turchia sta messa sempre benissimo, dal punto di vista, sempre peggio mi sembra, no? Dal punto di vista della libertà di informazione. Sì, la Turchia è al 149esimo posto su 180. È uno di quei tanti casi di paesi che hanno un sistema formalmente democratico, pensiamo anche alla Russia, no? Dove quindi si svolgono le elezioni, c'è una struttura di separazione di poteri dal punto di vista istituzionale, e però poi nei fatti questa separazione viene cancellata dalla netta prevalenza del potere esecutivo, che condiziona sia il potere giudiziario e soprattutto il potere di esercizio della facoltà giurisdizionale, di polizia e così via. Cioè c'è un controllo dall'alto che impedisce che la divisione dei poteri, che sappiamo è lo strumento essenziale perché si possa realizzare un'autentica democrazia, venga messo da parte. Aggiungiamo a questo, sia per la Russia sia per la Turchia, che il controllo dei mezzi di informazione è pressoché totale, per cui la formazione di un'opinione pubblica è un'ipotesi del tutto astratta, e si capisce bene la violenza che si possa usare dal punto di vista istituzionale nei confronti del direttore e del caporedattore di Cumhuriyet. Mi pare tra l'altro, Mimmo Candito, che si vada di male in peggio, no? Stia peggiorando la situazione in Turchia, tra l'altro sì. Un paese su cui si dibatte da tempo per farlo entrare in Unione Europea, ma insomma mi sembra che le condizioni... Siamo di fronte alle, come dire, alle necessità della politica. La politica ha sue convenienze. C'era Weber, ricordiamo Weber, che aveva scritto quel libro, quel celebre libro, La politica come mestiere o qualcosa di simile, dove distingueva fra etica dei principi ed etica delle convenienze. Etica dei principi è quella che riguarda una società che si batte, si impegna perché vengono realizzati i principi della democrazia. Etica delle convenienze è quella che deve dare conto di molte opportunità che fanno parte della gestione della cosa pubblica. Ecco, l'ideale sarebbe evidentemente una capacità di bilanciamento fra le due etiche. Nei fatti molto spesso la politica lascia prevalere l'etica della convenienza. Pensiamo a quanto sta accadendo in questi giorni con noi, con l'Iran. Noi sappiamo che l'Iran è un paese che dal punto di vista della difesa del dei diritti umani è un paese dove veramente va uno degli ultimi posti. L'anno scorso ci sono stati 200 impiccati, sappiamo qual è il ruolo della donna e così via. E però abbiamo convenienze perché ci porta 17 miliardi di euro. Già, Mimmo Candito, ti ringrazio. Mimmo, E buon lavoro e buona continuazione. Leggo a quello che dicevi tu il messaggio, uno dei messaggi che arriva da questo punto di vista, Enrico da Modena su WhatsApp, dice: quello che mi dà più fastidio non sono le statue quanto il fatto che come nazione siamo autorizzati a stringere legami d'affari con l'Iran soltanto dopo che gli Stati Uniti hanno ritrovato i vecchi amici. Le aziende italiane hanno bisogno di export come dell'ossigeno e non trovo giusto questo essere sottomessi agli americani. Mentre un altro ascoltatore dice: val bene coprire le statue per 17 miliardi, che sono appunto i soldi derivanti dagli affari, insomma il business, i contratti firmati tra Iran e gruppi aziendali industriali italiani. 349-238-6666 per i vostri messaggi, sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, ma c'è il nostro Giovanni Capuano che deve dirci come procede la partita di Coppa Italia. La Juventus è sempre in vantaggio, Giovanni? Sì, Roberta, sempre in vantaggio, decide il calcio di rigore di Morata, 34esimo del primo tempo, calcio di rigore che ha consentito allo Spagnolo di tornare al gol che mancava dal 4 ottobre, rigore concesso da Tagliavento per un contatto tra Murillo e Cuadrado. Ci sono state grandissime proteste, è una partita molto nervosa, molto tesa, rigore che sembra esserci, gli juventini protestavano perché chiedevano a quel punto il cartellino rosso per Murillo, gli interisti protestavano dicendo che si trattava di una spallata, Tagliavento ammonito Murillo, rigore realizzato da Morata. In questo momento ci sono altre proteste perché Tagliavento ha fermato un'azione offensiva dell'Inter perché Chiellini era finito a terra, ricordiamo ancora il rigore negato alla Juventus al 14esimo. Insomma, una partita che sta offrendo davvero tanti spunti e che rimane comunque aperta. La Juve la sta giocando meglio, crea più occasioni, ma l'Inter è pericolosa tutte le volte che riparte nella metà campo della Juventus. Ultima annotazione: nel finale del primo è stato ammonito Miranda, cartellino giallo pesante perché era diffidato e salterà la gara di ritorno. A te. Grazie Giovanni Capuano. Intanto stavo vedendo l'ascoltatore sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Nino, che dice: io però mi ricordo anche le foglie di fico. È vero che per diversi anni anche l'estate italiana in Italia avevo questa ridicolissima foglia di fico sulle parti intime. Io direi di aggiornarci a questo punto alle 22:00.